tempo fa, nel centro di questa città. Non c'era anni fa, sarà colpa del gas. Mentre quelli al mare non hanno le zanzare, non hanno più lo smog, non strippano sul blog. La si balla il twist e limbo cic cic, ma loro non sanno che i poli si scioglieranno. Al palazzo dei musei c'è il bagno